in primo piano. Buona giornata, buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. C'è molta politica, c'è discussione politica in evidenza sulle prime pagine dei giornali questa mattina, e la cosa non stupisce perché si apre domani una settimana importante, non vogliamo dire decisiva naturalmente, ma diciamo importante soprattutto per quanto riguarda la riforma del lavoro. La riforma del lavoro, oramai più nota, più riferita con il termine di Jobs Act, che è una delega al governo, appunto, dove il governo chiede al Parlamento di intervenire in una serie di materie che regolano i rapporti di lavoro. Questo comporta una serie di prese di posizione importanti un po' su tutti i giornali, con schieramenti, indicazioni dai sindacati, dai politici, dallo stesso Matteo Renzi, che in un'intervista a Repubblica in qualche modo rilancia, partendo proprio dal Jobs Act e dal famosissimo articolo 18. Allora, partiamo da questa intervista rilasciata da Renzi a Repubblica. Vediamo qualcuna di quelle dichiarazioni. In prima pagina il quotidiano la presenta con questa frase di Renzi: mi attaccano ma non mollo, intervista sfogo di Renzi alla vigilia di una infuocata direzione del Partito Democratico. Dice: non sono massone e non omaggio i poteri forti. Qui bisogna fare un po' di passo indietro. Torniamo a un editoriale che è stato pubblicato sul Corriere della Sera dal direttore Ferruccio De Bortoli nei giorni scorsi, il giorno 24, e in cui appunto si parlava di uno stantio odore di massoneria, in modo generico, non riferito direttamente a Renzi, ma appunto Renzi a questo fa riferimento quando dice: io non sono massone e non omaggio i poteri forti. E poi sull'articolo 18, è un po' il tema centrale di tutta questa discussione, va tolto, è inutile. La CGIL, segretaria della CGIL Susanna Camusso, ha detto ieri: siamo pronti allo sciopero. Domani in assemblea anche Bersani e D'Alema, domani appunto il Partito Democratico, che è spaccato sulla posizione da tenere in materia di articolo 18 all'interno del Jobs Act, all'interno di questa delega al governo. Ci sarà questa direzione in cui appunto si vedrà quanto il Partito Democratico sta con il suo segretario Presidente del Consiglio, quanto invece potrebbero cambiare le posizioni all'interno del partito. Tra l'altro, sempre da Repubblica e ancora in tema di politica, si segnala appunto la possibilità di una entrata in politica di Della Valle, dell'industriale Diego Della Valle. Pensa a un governo anti-Matteo, riferisce il quotidiano. Vado al Quirinale con una lista di ministri. Ma intanto restiamo un attimo su questa intervista di Repubblica, che indubbiamente oggi detterà un po' scandirà un po' l'agenda delle dichiarazioni in questa giornata. Vi leggo qualche brano qua e là dall'intervista, che occupa le pagine 2 e 3. Quando vuole rottamare l'articolo 18, chiede Claudio Tito, lui risponde il Presidente del Consiglio Matteo Renzi: va cambiato tutto lo statuto dei lavoratori, è stato pensato 44 anni fa. È come se uno cercasse di mettere il rullino in una macchina fotografica digitale, sono due mondi che non dialogano. Nel merito, l'articolo 18 non difende tutti, anzi in fin dei conti non difende quasi nessuno. Nel 2013 i lavoratori reintegrati sono stati meno di 3.000. Considerando che i lavoratori in Italia sono oltre 22 milioni, stiamo parlando dello 0,0001%. È solo un tema strettamente ideologico, dice Renzi. Il reintegro spaventa gli imprenditori e mette in mano ai giudici la vita delle aziende. Va tenuto solo per i casi di discriminazione, per gli altri indennizzo e presa in carico da parte dello Stato. Che significa? Dice: perdi il lavoro, lo Stato ti aiuta a ritrovare facendoti corso di formazione, almeno due proposte di lavoro. In effetti nel Jobs Act, all'interno del Jobs Act, che come vi dicevo è una delega che il governo chiede per riformare tutta la materia dei rapporti di lavoro, oltre al superamento di quel che ancora resta del reintegro dell'articolo 18, che è stato modificato già pesantemente nel 2012 con la riforma varata dall'allora ministro Elsa Fornero, bene, in questo Jobs Act c'è anche un complesso piano di interventi sugli cosiddetti ammortizzatori sociali, cioè i meccanismi di sostegno, dalla cassa integrazione alla più recente ASPI, come si chiama il più recente ASPI, Gaspi. Renzi vuole appunto puntare su un sostegno di tipo attivo, politiche attive di reintegro, come si dice nel gergo. Però una soluzione, dice Tito, chiede Tito a Renzi, la minoranza la sta proponendo, congeliamo per i primi 3 o 4 anni il diritto al reintegro. Qui Renzi è abbastanza tranchant, scusi, ma che senso avrebbe? Sarebbe un errore, significherebbe essere un paese in cui il futuro dell'economia e dell'industria dipende dalle valutazioni dei giudici. L'articolo 18, o c'è per tutti o non c'è per nessuno. Lasciarlo a metà non tutela i cittadini e crea incertezza alle aziende. Oggi una delle loro preoccupazioni è che le aziende non sanno come va a finire un'eventuale causa di lavoro, è l'incertezza che ci frega e siamo passati dal 7% di disoccupazione a quasi il 13%. Cambiamo tema, anzi no, scusate, restiamo ancora un istante su una domanda di Claudio Tito relativa al lavoro. Non è che questa riforma, chiede Claudio Tito al Presidente del Consiglio, è un prezzo da pagare all'Europa e non una esigenza reale? Non scherziamo, quando hai il 43% di disoccupazione giovanile, se non intervieni sul mercato del lavoro sei un vigliacco. Certo, se la riforma sarà approvata come io la propongo, questo costituirà un cambio di gioco in Europa, perché dopo aver impostato la riforma costituzionale, la legge elettorale, la riforma della giustizia civile, la pubblica amministrazione, la riforma del lavoro ci permetterà di andare in Europa senza più nulla da dimostrare. Della serie, ok, noi le riforme le abbiamo fatte, adesso abbiamo tutte le carte in regola per dire basta a questa politica di austerità miope e sterile. Ancora chiede Claudio Tito, e qui cambiamo tema, si allarga un po' sulla posizione complessiva del Presidente del Consiglio e del Governo Renzi in questa fase. Parlare di poteri forti sembra un modo per nascondere le difficoltà. Renzi risponde in modo caustico, come già ha fatto in simili occasioni con domande analoghe. I poteri forti o presunti tali sono quelli che in questi 20 anni hanno assistito silenziosi o complici alla perdita di competitività dell'Italia. Ora vogliono chiedermi in 6 mesi quello che loro non hanno fatto in 20 anni? Legittimo, ma io governo senza di loro, non contro di loro, semplicemente senza di loro, senza consultarli, senza omaggiarli, senza accontentarli. Sono una persona senza padroni, senza padrini. Questa per loro è la mia debolezza, per me invece è la mia salvezza. Una sola domanda con risposta molto diretta da parte di Claudio Tito con risposta di Matteo Renzi: quando si vota? Febbraio 2018. Questo, e poi naturalmente altro anche sulla Repubblica, su Repubblica di oggi nell'intervista a Matteo Renzi. E allora, come avete potuto sentire, i temi che si intrecciano sono sostanzialmente quelli della riforma del lavoro, del Jobs Act. Vediamo come dal Sole 24 Ore di oggi si sta delineando questa tormentata riforma del lavoro. Ci sono 5 deleghe, ci ricorda una scheda che trovate oggi a pagina 4 del Sole 24 Ore, le deleghe che vengono chieste dal governo per intervenire, dal governo al Parlamento per poter intervenire sulle norme di lavoro, sono relative agli ammortizzatori sociali, ai servizi per l'impiego e alle politiche attive, alla semplificazione delle procedure degli adempimenti, al riordino dei contratti, all'attività ispettiva e poi alla genitorialità e alla conciliazione. Tra l'altro Barbara Fiammeri ci ricorda che questa sera il Presidente del Consiglio sarà anche in televisione da Fabio Fazio, e quindi in questo modo si prepara, come dire, a una offensiva che dalle pagine di Repubblica si trasferirà, un'offensiva mediatica naturalmente, si trasferirà agli schermi televisivi con l'intervento in televisione da Fabio Fazio. C'è la tentazione di intervenire per decreto se la possibilità di modificare appunto le normative sul lavoro non si verificasse in Parlamento. L'ipotesi decreto, informa Barbara Fiammeri sul Sole 24 Ore, non è all'ordine del giorno, però non può ancora essere esclusa. Renzi vuole smentire quanti lo accusano di limitarsi alla politica degli annunci, quindi molto dipenderà dai tempi dei lavori parlamentari. Il Partito Democratico è diviso e se domani in direzione i numeri sono tutti a favore del segretario, al Senato c'è il rischio che proprio il suo partito gli faccia venir meno la maggioranza, un rischio che leggiamo sempre da Sole 24 Ore non è affatto peregrino. Cooper è tornato ieri a chiedere al Premier di mantenere l'unità del Partito Democratico. Tra l'altro vanno registrate anche le dichiarazioni della CEI, del Presidente dei Vescovi Bagnasco, che ha detto l'articolo 18 non è un dogma, la sua eventuale abolizione, ha detto Bagnasco, serve solo se crea posti di lavoro, altrimenti non serve a niente. In primo piano. Bentornati alla nostra rassegna stampa e ancora una buona domenica da Mauro Meazza. Grazie a Peter Bescapè che questa mattina rende possibile tutto questo stando al di là del vetro. Allora, come vi dicevo nella prima parte di questa rassegna, a dominare sono i temi relativi alla politica e alla riforma del lavoro, due temi che si intrecciano fatalmente perché la prossima settimana, cioè da domani, si aprono i giochi politici, il voto in aula sulla riforma del lavoro, il Jobs Act, e dall'altra parte c'è appunto anche un irrigidimento per quanto riguarda la minoranza del Partito Democratico che contesta proprio alcune cose chieste dal governo nel Jobs Act. La stampa riassume così le tematiche odierne con il titolo lavoro, la CGIL verso lo sciopero generale, Renzi pensa alla fiducia, la fiducia è naturalmente il voto di fiducia sul Jobs Act, sulla riforma del lavoro, il governo media su contratti e licenziamenti, ma su 5 punti le distanze restano incolmabili. La prima pagina della stampa però ci ricorda anche un'altra questione politica che non è italiana ma spagnola. Barcellona sfida Madrid perché Barcellona vuole votare il referendum per l'indipendenza ai primi di novembre. Il governo dice è un referendum illegale che non può essere, non si può fare. Quindi a questo punto vedremo come potrà essere composto questo scontro tra appunto la Catalogna e Madrid. Restando invece sulle questioni lavorative, dalle pagine interne sulla stampa, Camusso, la segretario generale della CGIL, pronta allo sciopero generale, lo faremo, dice, se si dovesse procedere per decreto sul Jobs Act, l'ipotesi appunto che vi segnalavo nella prima parte di questa nostra rassegna stampa, cioè che il governo di fronte a un eventuale stallo, difficoltà ad avere il voto del Parlamento sul Jobs Act, ricorra a un decreto legge, e il segretario della CGIL dice se così avverrà noi siamo pronti allo sciopero generale. La pagina a fronte di questo titolo contiene la risposta, quasi la replica al tema da parte di Matteo Renzi. Renzi non esclude un voto di fiducia e media sui contratti. Secondo quello che riferisce Carlo Bertini sulla stampa ci sono anche delle aperture sui licenziamenti discriminatori per evitare abusi. Potrebbe rientrare il fattore dell'età tra i casi protetti appunto da quello che residuerebbe il condizionale d'obbligo dall'articolo 18. Ma proprio sull'articolo 18 poi c'è un sondaggio oggi sul Corriere della Sera che fa dubitare anche della stessa utilità mia nel riferirvi così appunto di quanto i giornali scrivono oggi, perché apprendiamo da un sondaggio oggi sul Corriere della Sera fatto da Nando Pagnoncelli che il 53% di noi ammette di non sapere cosa prevede l'articolo 18. Quelli che dichiarano di essere informati, cioè il 47%, quindi siamo anche sotto la metà, di quelli che sono informati soltanto 2 su 3 sanno che riguarda il reintegro sul posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa, gli altri hanno conoscenze imprecise. Insomma, lo scontro è forte. Quello che probabilmente il sondaggio non esprime è che questo articolo 18, cioè appunto la possibilità di essere reintegrati quando c'è un licenziamento discriminatorio, questo articolo 18 poi vale sostanzialmente come una sorta di percezione sulla capacità di tutela o maggiore o minore tutela per il lavoratore. In questa forza che possiamo anche definire simbolica, sta poi il tema centrale dell'articolo 18, che però, e questo poi è sempre ricavato dal sondaggio che trovate oggi sul Corriere della Sera, l'articolo 18 non è più un tabù. Sì alla riforma dal 56% degli italiani, in molti non conoscono la norma. Giudizi più positivi sono tra gli elettori del Partito Democratico e quelli di Forza Italia. Con le posizioni della CGIL, dice Pagnoncelli sul Corriere della Sera, ci sarebbero solo il 20% degli italiani. Vediamo la prima pagina allora del Corriere della Sera, che è dedicata a un'intervista a Massimo D'Alema. Massimo D'Alema dice: Renzi è istruito da Verdini, e poi sul lavoro si può trovare una mediazione in Europa, dominio impressionante di Merkel. All'interno poi nella pagina 3 l'intervista di Dario Di Vico, dice il premier dice D'Alema a Di Vico: il premier è in difficoltà con Bruxelles e sul lavoro sbaglia perché la mediazione c'è, e poi l'unica vecchia guardia con cui parla era presentata da Berlusconi e Verdini. Dice: cosa sta sottovalutando Renzi? Gli chiede Dario Di Vico a Massimo D'Alema. L'Europa doveva cambiare verso, ma non sta andando nel verso che i progressisti auspicavano. Anzi, i popolari hanno una decina di eurodeputati in più, in commissione hanno fatto l'en plein. La Merkel ha ottenuto le presidenze della Commissione, del Consiglio europeo e dell'Eurogruppo, e ha pagato un prezzo modesto ai socialisti nominando il francese Moscovici agli affari economico-sociali, ma di fatto sotto il controllo di un superfalco come Katainen. I conservatori hanno 14 commissari, i liberali 5, i socialisti 8. Insomma, il predominio conservatore è impressionante. Questa lettura di D'Alema delle nuove condizioni interne all'Unione Europea, agli organismi di governo dell'Unione Europea, in pratica sembrerebbe in qualche modo dire che non sarà assolutamente facile né facilmente praticabile l'idea di andare in Europa anche a riforma del lavoro fatta e chiedere una diversa interpretazione appunto del binomio austerità-flessibilità. Così appunto sembra avvertire Massimo D'Alema, contrariamente a quello che auspica Renzi, come leggevamo prima nella intervista a Repubblica. E poi veniamo al Sole 24 Ore, dove ci sono anche altri temi che riguardano sempre i conti pubblici. Il titolo del nostro giornale questa mattina è dedicato alla legge di stabilità. Crescita, fondo da 3-5 miliardi nella legge di stabilità, il taglio IRAP, no all'estensione del bonus degli 80 euro. E poi l'ipotesi di far intervenire le casse di previdenza privatizzate, quindi ad esempio le casse che erogano le prestazioni per i commercialisti, per gli avvocati, per i farmacisti, insomma le diverse professioni, i medici, i veterinari, ecco le diverse professioni che hanno una loro previdenza obbligatoria non presso l'INPS ma presso enti autonomi, di far intervenire questi enti proprio in qualche modo in aiuto alla crescita, con l'ipotesi di un fondo garantito poi da Banca d'Italia e anche forse da Cassa Depositi e Prestiti per finanziare appunto gli investimenti. Di questo riferiscono oggi sul Sole 24 Ore Davide Colombo e Maria Carla De Cesari. Un fondo di investimento sull'economia italiana partecipato a larga maggioranza dalle casse private e dai fondi anche della previdenza complementare, e qui vengono in gioco anche fondi appunto di lavoratori che sono iscritti all'INPS ma hanno poi delle posizioni ulteriori di copertura previdenziale, appunto la previdenza complementare, presso enti propri. Questo fondo dovrebbe servire a convogliare risorse su programmi che spaziano dai finanziamenti alle piccole e medie imprese a interventi infrastrutturali per superare il digital divide. Il dossier, scrivono Colombo e De Cesari oggi sul Sole 24 Ore, è in via di definizione al Ministero dell'Economia sotto la regia del ministro Piercarlo Padoan nel ruolo di facilitatore e in collaborazione con gli enti coinvolti. Tutto questo dovrebbe essere istituzionalizzato con la legge di stabilità. Legge di stabilità di cui Dino Pesole ci ricorda oggi il menù. Allora, per quanto riguarda gli 80 euro del bonus IRPEF, che oggi è riconosciuto a 11 milioni di lavoratori che hanno reddito fino a 26 mila euro lordi, questo bonus è confermato, ma non sarà esteso ad altre platee come pensionati e partite IVA, perché sostanzialmente c'è una mancanza di risorse. Questa è la previsione al momento, poi scopriremo a metà ottobre qual è il contenuto definitivo della legge di stabilità. Ci sarebbe un intervento sull'IRAP, servono tra 15 e 20 miliardi di spending review, ovvero di tagli alla spesa pubblica, augurandoci che sia sempre la spesa pubblica di tipo improduttivo, naturalmente, non un generico taglio alla spesa pubblica tout court. Poi ci sarebbe in arrivo un credito d'imposta per la ricerca, quindi rafforzando un intervento che era già stato previsto l'anno scorso, e poi servono anche dei fondi per il Jobs Act di cui abbiamo parlato fino a poco fa, perché per finanziare ad esempio il riordino degli ammortizzatori sociali si stima che ci sia bisogno di 1,5 miliardi, 2 miliardi circa. Questo sul Sole 24 Ore oggi, riepilogando appunto i contenuti della legge di stabilità, che è attualmente in corso di definizione e nella quale, come vi dicevo, potrebbe trovar posto anche questo fondo particolare dato da parte dei finanziamenti delle casse private per sostenere gli investimenti in ricerca. Sempre sul Sole 24 Ore, ancora una segnalazione prima di ascoltare le informazioni sul traffico. Riguarda proprio le questioni di traffico, perché ci informa Maurizio Caprino oggi sul Sole 24 Ore che da novembre ci sarà la registrazione sulla carta di circolazione e alla motorizzazione per chi usa l'auto aziendale. Se c'è una disponibilità di un'auto non propria che supera i 30 giorni, scatta questo obbligo appunto di indicare il nome di questo utilizzatore sulla carta di circolazione e anche di segnalarlo alla motorizzazione civile. Spiega meglio in dettaglio Maurizio Caprino. In primo piano. E ancora una buona giornata, una buona domenica da Mauro Meazza. Ancora grazie a Peter Bescapè per l'assistenza questa mattina. Vi stavo segnalando, prima dell'interruzione per le informazioni sul traffico, questo obbligo che scatterà dal 3 di novembre di registrare chi utilizza un'auto aziendale o comunque utilizza un'auto non propria per un periodo superiore ai 30 giorni. Vi preciso solo, e vi rimando poi al Sole 24 Ore di oggi per tutti i dettagli nell'articolo di Maurizio Caprino, che chi è già assegnatario di un veicolo di questo tipo non deve adeguarsi, l'obbligo scatta per i nuovi utilizzi. Comunque tutto questo in dettaglio poi sul Sole 24 Ore di oggi. E veniamo allora a qualche altro giornale, soprattutto veniamo ad Avvenire, perché più che le dichiarazioni di Bagnasco, del cardinale Bagnasco sull'articolo 18, Avvenire è l'unico giornale che ci ricorda che in questo momento c'è in corso di fatto una guerra con il califfato, con lo Stato islamico. Escalation sulla Siria, si estendono i raid anti-ISIS o IS, come vogliate preferire, primi missili su Homs. In azione i britannici, la Turchia pronta alle truppe di terra. Aumenta l'offensiva della coalizione, ci ricorda Avvenire nel suo titolo principale di questa mattina. Anche l'Iran si dice pronto a colpire i jihadisti. Erdogan ora spinge per creare una zona di sicurezza. È abbastanza isolato il quotidiano CEI nel ricordarci appunto lo stato preoccupante di questa escalation di scontri tra appunto il califfato e la coalizione occidentale e araba che si batte contro il califfato. Erdogan preme dalla Turchia appunto e ha detto truppe di terra in Siria, i raid poi colpiscono per la prima volta Homs, ci sono stati anche passaggi di aerei inglesi sull'Iraq. Secondo un'analisi di Francesco Palmas, però, queste azioni per lo più dell'aeronautica, le azioni dei caccia, se non saranno accompagnate da atti politici, potranno fare ben poco. Il presidente turco, invece, torniamo a Erdogan, che ha rotto gli indugi, riferisce a venire: serve un'operazione, noi siamo pronti. Si punta alla creazione di una zona sicura per aiutare i siriani in fuga. Questo su Avvenire, che, come vi dicevo, è l'unico poi quotidiano questa mattina che decide di dare la sua prima pagina, il suo titolo più importante, alle vicende siriane, scostandosi quindi un po' dal complesso degli altri quotidiani che per lo più intervengono sulle questioni politiche, sulle posizioni e le dichiarazioni di Renzi, della minoranza del PD e il Jobs Act. Questioni economiche, ma non, un po' meno legate, diciamo così, alla attualità delle dichiarazioni della giornata di ieri o dei giorni immediatamente precedenti, sono quelle che troviamo su Libero e anche sul Messaggero. Cominciamo da Libero, che ci dice: il ceto medio paga gli 80 euro, guerra ai contribuenti, i conti di Renzi non tornano per farli quadrare, scrive Libero. Il governo pensa di togliere le detrazioni fiscali a chi ha un reddito superiore ai 30.000 euro, e poi in busta paga 120-150 euro in meno a ottobre, grazie al decreto INPS. Qui poi vengono unite due cose, ma la sostanza di questo titolo, il ceto medio paga gli 80 euro, è quella della revisione delle detrazioni fiscali. Ora, non è una novità, per così dire, perché questa possibilità di rivedere le detrazioni, il meccanismo di tutte le detrazioni fiscali, sono gli sconti su cui possiamo contare, ad esempio, per quanto riguarda gli interessi passivi sui mutui o le spese che abbiamo per i farmaci, per la sanità, per altre cose ancora. Ebbene, tutte queste possibilità di risparmio fiscale, all'inglese tax expenditures appunto, sono state monitorate un paio d'anni fa, ne hanno contate più di 700. Si pensa di riordinarle. Ecco, riordinarle potrebbe essere il verbo meno adatto, perché dal riordino potrebbe anche scaturire qualche riduzione, cioè qualche detrazione magari potrebbe essere diminuita, e quindi ci sarebbe uno sconto da parte del fisco inferiore rispetto a quello che c'è adesso. Questo viene spiegato da Antonio Castro, che torna sulla materia legandolo alla legge di stabilità, quindi per necessità di trovare i fondi di cui vi riferivo prima anche dal Sole 24 Ore, la possibilità di rivedere la tax e le tax expenditures, le detrazioni, gli sconti fiscali in genere. Il taglio, si torna a parlare di un taglio dal 19%, oggi la percentuale più utilizzata appunto per questi sconti fiscali chiamati detrazioni, dal 19 al 18% ci sarebbe applicato ai redditi compresi tra 30.000 e 60.000 euro. Chi guadagna in questa fascia, redditi compresi in questa fascia, non avrebbe uno sconto del 19% ma del 18%, e chi guadagna oltre questa fascia avrebbe uno sconto limitato al 17%. Di fisco si occupa anche il Messaggero questa mattina, che ci informa sulla possibile creazione di una super banca dati. Redditi, spese e patrimoni dei cittadini saranno raccolti insieme per i controlli anti-evasione. Ci sarà l'accesso anche per i contribuenti, poi fatture elettroniche tra aziende e scontrini telematici per tutti. Il lavoro del Messaggero, che viene poi presentato nelle pagine interne, a firma di Luca Cifoni, prende le mosse da una audizione che c'è stata nei giorni scorsi da parte del neo direttore dell'Agenzia delle Entrate Orlandi, la signora Orlandi, che ha parlato di una possibile unificazione appunto delle banche dati, perché le banche dati a disposizione in generale della pubblica amministrazione sono quasi 130, mi pare di ricordare 128, quelle a disposizione del fisco sono un po' meno, ma non sono pochissime, anche qui vado a memoria, ma mi pare di ricordare che siano almeno una quarantina. Ecco, il tema, la sfida adesso sarebbe proprio quella di riunificare questi dati che attualmente sembrano parlarsi abbastanza poco. Scontrini elettronici e unica banca dati, scrive sul Messaggero di oggi Luca Cifoni, così cambierà la lotta all'evasione. In un solo clic tutti i dati su spese, redditi e proprietà disponibili anche ai contribuenti per spingerli a pagare. È una specie di moral suasion, se vogliamo usare un termine inglese. E sempre in questa pagina del Messaggero troviamo anche la gestazione della legge di stabilità. Il governo cerca i fondi per allargare il bonus alle famiglie, estendere il bonus IRPEF di 80 euro al mese anche alle famiglie numerose in cui però vengono superati magari di poco i previsti limiti di reddito. Quindi no all'estensione, l'estensione alle partite IVA ai pensionati sembra tramontata, così ci spiega il Messaggero, però si studia il modo di alzare un po' questa asticella dei 26.000 euro oltre la quale non c'è bonus di 80 euro, di alzare un pochino questa asticella nel caso di famiglie numerose. Questo sul Messaggero di questa mattina, che appunto dedica al fisco e alle novità possibili per il fisco il suo titolo principale. E da Il Giornale riferiamo anche Berlusconi, la verità su Renzi, il leader di Forza Italia che dice: siamo all'opposizione ma la riforma del lavoro è quella che vogliamo noi. Dopo i vescovi, CGIL all'assalto, pronto lo sciopero generale. Berlusconi che ha detto anche, tra l'altro, l'abolizione dell'articolo 18 la volevamo noi, sosteniamola, parla il Cavaliere sul giornale di questa mattina. Opposizione a Renzi, però sul lavoro saremo coerenti. Il Cavaliere mette a tacere le voci di divisioni interne. Restiamo alternativi al governo, ma non possiamo dire di no alle riforme che vogliamo. Per quanto riguarda le alleanze, la dichiarazione di Berlusconi è porte aperte, quindi disponibilità a trattare. E questa è l'ultima segnalazione per la rassegna stampa di questa mattina. Ancora una buona domenica da Mauro Meazza.